Brasil. La nostalgia è tu Brasil. Brasil sta lì. L'Italia qui. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Come state? Bene. Come degli esseri umani. Beh, è veramente un inizio di puntata spumeggiante. Non c'è niente di nuovo. All'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre pessimismo. Dall'arbitro Matic, parte Müller, rete, Germania in vantaggio, parte il cross verso Hummels, raddoppio della Germania, Mats Hummels, Toni Kroos la riputa in mezzo, Bruno Alves, un rimpallo, terzo gol di Müller, Schürrle contrario in area, Schürrle controllo nel granché, la mette in mezzo, lui Patrizio, Müller, arriva all'Afrik, 3 gol di Müller, 4-0 della Germania. Beh, mica male, eh? Lego. Dempsey cambia direzione, Dempsey in aria, Dempsey! Neanche il tempo di metterci comodi, Stati Uniti già in vantaggio, Clint Dempsey, 1-0. Dentro per Gian, buon pallone, in colpo di tacco, Andrea Yu! Il pareggio del Ghana, Gian con il tacco, Yu col sinistro, 1-1. Susi, buona traiettoria, colpo di testa di Brooks, 2-1 per gli Stati Uniti, segna Brooks con una capocciata. Lego. Questo ciò che è successo ieri, l'ultima serata mondiale con la Germania che ha distrutto, asfaltato, schiantato, scegliete voi il verbo, il Portogallo e Cristiano Ronaldo con Müller che con quel faccino un po' così si è infilato una corona importante, perché 3 gol in un mondiale, perché è stato il capocannoniere dell'ultimo mondiale, perché è uno straordinario giocatore di pallone, l'ho sempre detto. Nel mio piccolo, Stati Uniti battono il Ghana in questa saga infinita. Ogni volta si ritrovano l'uno di fronte all'altro ai mondiali e qualcosa succede. Ieri gol in apertura, il pareggio, poi gol della vittoria nel finale da parte degli americani. Non avete sentito nulla a proposito di Iran-Nigeria, perché questo è il primo pareggio mondiale, primo pareggio con risultato a occhiali, nessun gol, e dunque Iran-Nigeria entra nella piccola storia di questo campionato del mondo. Oggi vediamo la fine del primo giro di valzer, in campo la Russia di Capello, in campo l'attesissimo Belgio, e poi si ricomincia, si riparte da capo, perché alle 21 torna in campo il Brasile con tutte le sue pressioni, con tutti i suoi dubbi, anche con qualche fantasma, perché il Messico per i brasiliani è sempre stato un avversario difficilissimo. E poi stiamo aspettando di rivedere in campo qualcosa di azzurro, no? Ci toccherà aspettare fino a venerdì, partita con la Costa Rica. Grande entusiasmo, poi ci colleghiamo con Pardo, con Ricci che sono lì, che ci diranno tutto sul giorno di allenamento degli azzurri e sui dubbi, soprattutto sui dubbi, e qui sono curioso di sentire come la pensate voi, ma anche e soprattutto i nostri ospiti che stiamo aspettando, 800 24 00 24, perché i dubbi sono essenzialmente due. Uno potenziale, quello relativo al portiere, ne abbiamo parlato ieri. Buffon sta recuperando rapidamente la condizione. Sirigu ha giocato una meravigliosa partita contro l'Inghilterra e adesso la scelta toccherà a Prandelli. Mettere il totem un po' acciaccato, una partita con la Costa Rica che potrebbe essere quella che ci spalanca le porte del primo posto in questo girone, ed eventualmente poi reinserire Buffon cammin facendo magari la terza partita contro l'Uruguay, oppure rimetterlo subito magari un po' acciaccato. Che succede al capitolo portiere è quello che vogliamo scoprire, e quella difesa che abbiamo visto contro l'Inghilterra è stata la parte meno convincente della partita azzurra. Dunque, queste due questioni da discutere con gli ospiti che stanno arrivando e con voi. 800 24 00 24, Franco Piantini, autore di questo programma. Oggi c'è Pietro Lacorte in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Stati. Se gioco o no non lo so. Io sono tranquillo e sereno come ero nei giorni scorsi e mi allenerò normalmente e Gigi uguale, speriamo tutti di poterlo recuperare, di riaverlo tra di noi in campo, questo è sicuramente senza dubbio. Abbiamo voglia di riaverlo non solo tra noi nello spogliatoio, ma anche in campo con le sue parole, con il suo carisma e la sua personalità. Però ancora non lo so, io l'ho visto abbastanza bene, tranquillo, credo che sta recuperando. Questo era Sirigu in conferenza stampa. Ci sono poi molte altre storie e questioni che affronteremo, da Darmian che adesso è al centro del mercato, mezzo mondo lo vuole, soprattutto la Juventus, Balotelli sempre più così circuito dall'Arsenal. Ci sono altre storie come quelle della faccenda arbitrale, ci sono queste piccole grandi innovazioni arbitrali che per la prima volta mettono d'accordo tutti. Signori, queste cose funzionano, quindi sarà il caso di attrezzarsi anche quando il mondiale sarà finito per i campionati nazionali. Però voglio tornare su questi argomenti, su queste carezze di Sirigu a Buffon, parlandone con due grandi galli. Uno è Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, buon pomeriggio. E l'altro è il mio amico Filippo. Ciao Filippo Galli. Ciao a tutti, ciao Giovanni. Responsabile del settore giovanile del Milan, come tutti ben sapete, e colui che ha cresciuto Darmian e De Sciglio, peraltro. No, non esageriamo, cresciuto. Ho allenato Darmian, perché è facile, no? Poi diventare i papà acquisiti dei campioni. Io ho avuto la fortuna di allenare Darmian per due stagioni, così come ho avuto la fortuna di avere De Sciglio con noi nel settore giovanile, niente di più. Poi ognuno cerca di fare facile meglio, ma facile, quasi banale domandarti se te lo aspettavi a questi livelli. Beh, guarda, aspettarsi a questi livelli no, sarei bugiato, però mi aspettavo che potesse diventare un giocatore professionista, perché lo aveva, io sto parlando di Darmian, perché aveva un'intelligenza calcistica superiore agli altri, una negazione superiore agli altri, e giocava difensore centrale, forse non avendo la struttura, giocava con l'anno in meno, però tanti insomma sono stati nelle sue situazioni, nella sua condizione, e poi non sono arrivati. Io devo dire che, come ho sempre sottolineato in questi giorni, aveva una famiglia presente, attenta, ma mai invadente, e credo che debba essere questo una... Questa è una chiave importante, certamente, per crescere nella maniera corretta. Ho avuto allenatori importanti nel nostro settore giovanile, prima ha avuto Giovanni e altri che l'hanno fatto crescere, e poi ripeto, credo che qua ci abbia messo tantissimo del suo, perché poi ha fatto una carriera passo dopo passo che l'ha portato fino alla nazionale. Giovanni Galli, invece, volevo parlare con te di questo potenziale problema che ci può essere per Prandelli. Ieri parlavo di piccola questione diplomatica che Prandelli si troverà a risolvere. Sirigu entra e fa una partitona, Buffon è acciaccato, recupererà in tempi più o meno brevi, recupererà, lui è il totem, il capitano, il simbolo, il leader di questa nazionale. Che si fa? Si toglie quello che ha giocato benissimo e si mette Buffon, perché è lui il titolare, un Buffon magari incerto e non perfettamente ristabilito, o si va avanti con Sirigu? Beh, se Buffon recupera e sta bene, è giusto che il titolare e la maglia venga ridata a Buffon, per un semplice motivo, perché è uscito dal campo per un infortunio e non perché non era in condizione o perché stava dando delle brutte prestazioni. È logico che oggi il calcio è fatto da 18-20 giocatori nella stessa partita, cioè tutti quelli che porti in panchina, 23 giocatori, 22 quanti sono tutti potenziali titolari, perché non è che si può pensare che se uno esce quello che entra no, dia meno di quello che è uscito, anzi gli si chiede qualcosa di più, per cui il calcio oggi è cambiato decisamente. Una volta eravamo in 16, 11 erano i titolari, poi c'era un portiere di riserva che non giocava mai, e poi c'erano altri 4 giocatori che andavano in panchina a vicenda, per cui credo che è cambiato radicalmente. Insomma, oggi hai 23 titolari e tutti e 23 devono essere a disposizione. È logico che, torna al discorso iniziale, se Gigi è uscito per infortunio, è giusto che Gigi, nel momento in cui sta bene, si riappropri della maglia da titolare. L'unica nota, ecco, è che finalmente Sirigu ha tolto i dubbi a tutti con quella prestazione, con queste quelle prestazioni, perché anche con l'Irlanda giocò molto bene. Cioè, voglio dire, finalmente abbiamo trovato l'erede di Buffon. Certo. Cioè, ora Buffon può anche dire alla fine del mondiale o del prossimo europeo: signori, stacco la spina. Ecco, siamo in mani sicure. Sì. Beh, va detto che il portiere è l'unico ruolo, almeno per come la penso io, che non può essere soggetto ad alcun tipo di turnover. È l'unico ruolo in cui le gerarchie devono essere chiare. Ancelotti è riuscito a vincere quest'anno la Champions League facendo turnover, ma rischiando molto, abbiamo visto, anche nella finale e in occasioni precedenti. Il portiere è l'unico ruolo che non ammette questo tipo di gestione dei giocatori, no Giovanni? Ma sai, lo dici a me, che io forse sono stato il primo antisignano di questa situazione. Sì, mi ricordo. Mondiale dell'86, l'alternativa con Tancredi, poi al Milan con Andrea Fazzagli. Insomma, voglio dire, io sotto questo punto di vista so raccontarvi di tutto e di più, ma credo che l'importante è che il calciatore, il portiere, comunque continui ad allenarsi bene, non abbia niente, no, da rimproverarsi. È logico che se sei uno che fai vita a strampalata, non dai sicurezza alla squadra e pretendi per il nome che porti di giocare titolare, questo non è assolutamente corretto. No, però devi avere una certezza, devi avere delle certezze che Esatto. Ecco, che il titolare forse ha qualcosa in più, ma non deve essere quella. Ecco, non deve dormire, certamente. Ecco, non deve dormire, non ha i galloni cuciti a vita sul braccio, deve stare in campana, però insomma tendenzialmente è così che vengono gestiti i portieri. Filippo, l'infortunio di De Sciglio ha mandato per aria il puzzle difensivo di Prandelli contro l'Inghilterra. De Sciglio si è fatto male, è un giocatore molto importante già adesso che è estremamente giovane. Allora abbiamo visto Darmian, che è un laterale sinistro e che vive su quell'altra fascia, spostato di qui, e ha giocato una grande partita. Chiellini, che è nato terzino, ma terzino a sinistro non è più da un sacco di tempo, spostato a quell'altra parte. Paletta al centro è stato più deludente, pagando, secondo me, più che i suoi limiti effettivi, pagando la tensione, la pressione di una partita così importante che non ha mai vissuto, naturalmente. E vicino a lui Barzagli, la difesa è stata il reparto meno convincente dell'Italia. Adesso, come dicevi tu, però è stata anche una difesa che è stata così assemblata un po' forse all'ultimo, no? Almeno per ruoli. Darmian dice che è un terzino sinistro perché lui ha detto che preferisce giocare a sinistra, perché questo gli dà un'opzione in più entrando al centro, e quindi poteva andare addirittura alla conclusione. Abbiamo un giocatore può giocare sia a destra che a sinistra, perché tecnicamente è veramente forte, un po' come De Sciglio. Sì. Io credo che adesso bisogna riportare un po' gli uomini nelle loro ruoli. Darmian a sinistra, centrale Chiellini, al suo fianco di metro uno e a destra Abate. A questo punto, insomma, voglio dire, uno, credo che così sia una situazione più no, io sono più, più collaudata, ecco. Io sono per far giocare i giocatori ai loro ruoli, cioè Abate non è stato brillantissimo nella fase di preparazione, però sarai portato fin lì, insomma, quel ruolo è quello che sa interpretare meglio. C'è questo tipo di emergenza, allora uno a destra, l'altro a sinistra, e in mezzo chi dici tu, chi vuoi tu. Poi voglio dire, poi è chiaro, siamo sempre lì, no? La difesa dipende anche come è coperta dal centrocampo, il tipo di filtro fa il centrocampo, anche se è vero che ormai le difese dovrebbero avere giocatori che sanno giocare in campo, a campo aperto, quindi campo alle spalle, no? Quindi avere una velocità di base importante, forse non l'abbiamo nei nostri centrali, quindi siamo costretti o a soffrire o comunque a dare una maggiore copertura rispetto a quello che è stata data nella recente partita con l'Inghilterra. Però abbiamo vinto, insomma, guardiamo sempre, non ci vuole bene nulla, noi siamo sempre critici. No, hai ragione, ma critici, lo sostengo da tempo. Ma no, ma io infatti è vero, ti ascolto. Io da tempo ho dato, lo sai, il partito dell'ottimismo, ti ho mandato la tessera, no? Mi sono ricordato, te l'ho mandata a te, a Giovanni Galli, il partito dell'ottimismo, perché è inutile andare lì con il broncio, con mille dubbi. Andiamo, giochiamo con il sorriso in fondo l'Italia è una delle squadre da battere ad ogni mondiale. Vi chiedo un'ultima cosa ad entrambi riguardo a Balotelli. Filippo, nell'ambiente in cui vive normalmente, quello del Milan, lo conosci molto bene. In azzurro mi sembra più sereno, più produttivo, poi riesce anche a ridere, anche perché va lì Chiellini e dice: oh Mario, adesso ridi, dopo che ha fatto gol con l'Inghilterra. Ti sorprende questo? Cioè, ti sorprende questo, insomma, questa maggiore tranquillità di Balotelli? Il fatto che comunque in nazionale riesca a rendere bene. Mi sorprende, è un ambiente per adesso sereno, dove è arrivato il primo risultato, e quindi questo aiuta tutti, no? Quando ci sono i risultati, tutto l'ambiente ne risente in maniera positiva. Quando invece i risultati non arrivano, è chiaro che ci sono più tensioni, c'è più nervosismo, e questo c'è chi lo sopporta meno, chi è più portato ad esprimere questa sensazione di tensione con comportamenti non idonei, insomma. Ecco, però io credo che Mario si stia comportando bene, lasciamolo stare, speriamo di non chiedere il contributo che ha dato anche nella prima gara. Lasciamolo stare, Giovanni, lasciamolo stare, ma teniamolo lì, titolare. Assolutamente, ma la cosa che più deve risaltare, o perlomeno ha fatto vedere, è il sacrificio che lui ha fatto per la squadra. È stato un tempo senza toccare palla, con tutte queste palle in verticale che lui doveva scattare andando verso la porta, difficilissime fra le altre cose anche da controllare e da poter giocare, però ha insistito per tutta la partita perché l'allenatore gli ha imposto, e difatti alla fine, non so se ci avete fatto caso, proprio Prandelli ha detto: è un talento assoluto, deve imparare e deve capire che quelli sono i movimenti del centravanti. Sì. Mi viene a mente le parole del nostro presidente, il dottor Berlusconi, quando dice deve fare il centravanti, no? Ecco, sì. E qualche volta magari al Milan questo se lo dimentica e magari va un po' in giro per il campo, sì. Cosa che invece abbiamo visto quanto sia determinante, quanto sia forte, quanto sia produttivo per la squadra se lui gioca là davanti. Sì, diciamo che sul piano politico mette d'accordo tutti, Prandelli e Berlusconi, deve fare il centravanti e lì deve giocare. Grazie Giovanni Galli, grazie Filippo Galli. Grazie, ciao. 800240024, adesso sentiamo la borsa, poi tocca a voi. Tutti convocati. Siamo gli ottimisti. Ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Non c'è niente di nuovo. All'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre il pessimismo. Yeah! Io dichiaro ufficialmente che fondo il partito dell'ottimismo. Yeah! Secondo me c'è troppo poco entusiasmo, porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Yeah! E quando mi è stato posto la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Yeah! Dai, basta piangere addosso, di qui e di là, vinciamo noi. Siamo gli ottimisti. Ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Yeah! Manifesto, dobbiamo mandarlo tutti i giorni, campagna elettorale totale, ma tanto noi non abbiamo neanche vincoli particolari, ci appropriamo di questo mezzo, ci appropriamo di Radio 24 per condurre la nostra campagna elettorale, da qui alla fine dei mondiali, tanto per cominciare, ma poi andremo avanti. Vi do questa notizia prima di farvi ascoltare un paio di voci. Allora, la Lazio ha annunciato il riscatto di Candreva, che sarà comunque uno degli uomini mercato in questa stagione, in questa sessione estiva, però chi vorrà Candreva dovrà trattare con Lotito ed è una cosa complicatissima, come sappiamo bene. La Lazio ha annunciato anche di aver preso dall'Udinese Basta. Dunque, due notizie che arrivano dalla Lazio. Adesso voglio farvi sentire un paio di opinioni di Zeman. Una, non sto scherzando, sembra un po' paradossale, è vero, me ne rendo conto, però l'opinione di Zeman sulla difesa italiana. Zeman che parla di difesa, fate un po' voi, se ha ragione lui o se bisogna magari fare il contrario. Io penso che a parte Sirigu, che ha fatto delle parate buone, poi Chiellini ha sofferto il ragazzino, però non ci ha dato molto. Nel mezzo Barzagli con Paletta hanno sofferto, ma hanno sofferto poco. D'altra parte c'era Darmian che era sicuramente molto più utile in fase offensiva, ma anche perché Runei, che poteva essere uomo decisivo, secondo me non si è espresso meglio. Dunque, questa era Zeman sulla difesa azzurra, ma sentiamo anche cosa ha detto sul goleador azzurro, cioè Mario Balotelli. Io penso che Balotelli ha giocato poco, poi la profondità, la dama, penso che solo due palle ha giocato in profondità. Poi è vero che il secondo tempo ha fatto gol all'inizio di testa, però poi penso è stato poco impegnato nel gioco. Boh, non so se ha giocato poco, ma noi tutti quanti credo faremmo la firma per avere un Balotelli così per il resto dei mondiali, auspicando una crescita che sono sicuro arriverà. Tanto ragazzo ha fiducia, questo è importante. Eccolo qui, mio compagno di banco. Ciao Pierluigi Pardo, come stai? Come va? Bene, tu? Benissimo, benissimo. No, non come te, tra l'altro oggi a Milano piovigina, sembra un po' autunno. Lì? Ah, qui ci sono 30 gradi, oggi è veramente una giornata. Soliti 30. 30 gradi, ho fatto questi stand up con la cravatta. Mi sentivo morire, mi sentivo dentro la casetta di Manaus. Solito trentello incravattato, è vero. Solito trentello incravattato. Posso capire. Tra poco io voglio chiederti qualcosa su, insomma, questo primo giro di pista che abbiamo praticamente completato. Ci manca il tuo amico Fabio Capello, non è vero, con la Russia stasera. Come fa Fabio Capello? Come fa? Partita difficile, dobbiamo avere un approccio tecnico-tattico di un certo tipo, dobbiamo concedere poco, dobbiamo essere capaci di fare una buona partita. I coreani sono una squadra molto temibile, con grande qualità. Ma secondo me il 90% delle volte penso di intervistare Capello sei tu. Ma dobbiamo farci fare l'annuncio. Domani è il mio compleanno, tra l'altro. Domani compio gli anni. Sì, Sì. 18 giugno, come Montella. Non si dice quanti sono, perché non sta bene. Ma comunque, gioca la Russia, il Belgio, che è una delle squadre più attese, e poi le altre le abbiamo viste tutte. Con ieri sera, la Germania, che ha massacrato ciò che restava di Cristiano Ronaldo e ciò che restava di un Portogallo che, ingiudicabile probabilmente, ma che certamente non ha approcciato nel migliore dei modi o mondiale. Leonardo da Roma, Gianfranco da Roma, ci fanno compagnia. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a tutti voi. Dica. Aspetta, io non riesco a condividere l'accanimento mediatico che c'è nei confronti di Paletta, soprattutto dopo una stagione strepitosa con il Parma, e soprattutto perché poi molto voluto fortemente in nazionale anche gli stessi giornalisti che oggi lo criticano. Sì. E dispiace anche per il giocatore. La partita con l'Inghilterra non è che sia stata poi un disastro totale, come è stato poi erroneamente, secondo me, scritto anche sui giornali, e giudizi di voto anche abbastanza lesivi nei confronti del giocatore. Tutto qua. Guarda, Paletta è un giocatore che a me piace, sono stato e sarò sempre uno dei sostenitori dell'idea di Prandelli di portarlo al Mondiale. L'altra sera non ha giocato bene, perché non possiamo dire che ha giocato una buona partita. Certamente non è una partita da bocciatura secca, questo è evidente, può essere un giocatore molto importante. Non dimentichiamo, Pier, che era la sua prima partita lassù, no? Tra le stelle. Sì, io sinceramente non ho capito la scelta, ne avevamo anche parlato, mi sembra una scelta comunque rischiosa, anche se devo dire che onestamente Bonucci, visto nelle amichevoli precedenti, non è che fosse stato brillantissimo, quindi ci stava, insomma, la riflessione. Sì, ma secondo te perché allora Chiellini in quel ruolo, che adesso è il suo, non dirmi che Chiellini è ancora un terzino sinistro? E allora, ne parlavamo prima con Giovanni e Filippo Galli, metti ognuno nel suo ruolo, cioè Abate a fare quello di destra, Darmian a fare quello di sinistra e in mezzo due centrali, no? Sì, questa è un'ipotesi, devo dire che insomma, ormai secondo me il calcio moderno, la differenza a livello di terzini la fa proprio la capacità di spinta. Chiellini ovviamente l'ha persa, ha altre caratteristiche, una abitudine a giocare da difensore centrale. Sì, però voglio dirti, se tu hai Darmian, cioè se tu hai l'altra catena che spinge molto, alla fine puoi anche puoi anche considerare un'opportunità questa di avere un esterno basso un pochino più prudente, anche se poi in realtà abbiamo sofferto anche lì, perché comunque la velocità di Starrid si è sentita fastidio, dall'altra. Io penso che si andrà verso Bonucci, difensore centrale, con Chiellini a sinistra, se non recupera De Sciglio, ovviamente non credo recupererà, con Chiellini a sinistra e con Damiano a destra. Quindi anche tu bocci Abate? No, ma non è che boccio Abate, è che secondo me se tu metti Abate devi spostare, devi cambiare fascia Darmian. Certo, questo sì. Il meccanismo Darmian Candreva ha funzionato, secondo me gli è piaciuto, lo confermerà. Questa è la mia sensazione. La cosa più semplice da fare è o confermare Paletta, ma insomma forse in un'ottica anche di turnover, Bonucci ci sta. Sì, così sì, come sì, un altro cambio potrebbe essere per Verratti, magari Thiago Motta o Parolo. Ecco, quello lo capirei anche un po' di meno. Questo è meno probabile, secondo me. Però sai, 10 su 11 significa anche stancare un po' la squadra, cioè confermare 10 titolari su 11. Questa è una competizione lunga, intensa, nella quale è importante non perdere i giocatori. Hai bisogno di 16, 17, 18 giocatori e non li devi perdere, li devi gestire. È anche vero però che la squadra che ha battuto l'Inghilterra, che ha fatto questo risultato, ha fiducia e non devi nemmeno far venire meno questo tipo di fiducia. Insomma, sono molti risvolti, molte anche sottigliezze, mind games da considerare. Gianfranco da Roma. Buongiorno a tutti. Dica. Grazie per l'intervento. Condivido Pierluigi sul discorso di Paletta, perché secondo me non è un giocatore, per quanto sicuramente abbia fatto un ottimo campionato, come diceva Leonardo, nel Parma, non è un giocatore che è a livello. Il mio dubbio era un altro, però, che è un po' un dubbio che non ha una risposta attuabile, perché ormai è andata. Però vorrei capire se De Sciglio è infortunato, se Bonucci, sentito oggi in altra emittente, non ha il fisico al momento per garantire una continuità di rendimento, cioè pare che possa fare non più di una partita a livello di rendimento. Perché non tenere uno che non sarà sicuramente il massimo della sicurezza, ma almeno era integro fisicamente, come la Nocchia, che mettersi oggi nella condizione di avere una difesa che uno è acciaccato, parliamo di Abate che non è ancora al 100%, quell'altro non può giocare perché c'è lo stiramento, quell'altro non può fare due partite. Ma rischiamo che se la seconda partita, vista la prima con Manaus, anche se non sia un problema. Vabbè, ma questi, ma guarda, però Gianfranco, i problemi piccoli o grandi ce li hanno tutte quante le squadre, compresa la Germania che ieri ha travolto il Portogallo. Tutti hanno problemi piccoli o grandi con i quali convivere. Credo che la chiave sia questa, no, Pierluigi? Sì, però insomma, io capisco, la Nocchia francamente delle possibilità le aveva. Insomma, la domanda che ci siamo fatti dopo aver visto Paletta con l'Inghilterra, veramente Bonucci e Ranocchia sono peggio, insomma. Anche se poi io sono d'accordo sull'idea, cioè, mi sembra che sia passato in Italia un po' un capro espiatorio, no? Cioè, alla Paletta sicuramente non ha giocato bene, anzi è stato il peggiore degli azzurri, però non è detto che adesso sia lo sarà sempre, non era soltanto colpa sua. Secondo me lo abbiamo sbandato anche in altre zone del campo, insomma. Chiellini pure ha faticato tanto, appunto, sulla velocità di Sturridge e di Welbeck, sull'azione dell'1-1, che poi è l'unico gol che abbiamo subito, c'è anche forse un eccesso di entusiasmo da parte di Darmian, c'è una serie di errori che abbiamo compiuto, abbiamo preso il gol in contropiede e le responsabilità sono di tutti, non soltanto di Paletta. Paletta ha fatto un paio di errori clamorosi quando ha dato quel pallone nei primi minuti che ha concesso il tiro all'Inghilterra, insomma sicuramente sarò meno brillante, non sono per l'accanimento, per farne un capro espiatorio. No, sarebbe inutile, dai. La sensazione è che proverà qualcos'altro. Sai cosa c'è adesso, no? Brasile, Italia, cambia niente, c'è sempre il traffico. Bravo. Dove non le Bravo. Tutti convocati ogni giorno 800 24 00 24, con Pierluigi Parra. Il collegamento tengo a sottolineare che è perfetto oggi, lo sottolineo tre volte, non una. Adesso cadrà sicuro, vabbè, comunque. Sì, ascoltami, cosa mi dici della Germania? peraltro mia pronosticata iniziale, tu te lo ricordi, tutto agli atti, notaio Piantanida conserva gelosamente le buste con i pronostici. E... È lunga, lo so che è lunga, ma fammi godere. A me la Germania piace, per me la Germania è fortissima e lo dicevo anche prima di ieri. Questa generazione di giocatori tedeschi ha vinto pochissimo e il nazionale non ha mai vinto, cioè mi sembrano, c'è ancora il sospetto che siano un po' dei cuori di latta e questa è la sostanza. No, io, se tu rifletti su quello che hanno fatto, pare che la Germania è stata di una brillantezza in questi anni. Sì. Ha avuto una continuità di rendimento che neanche la Spagna ha avuto. Sì, sì, sicuro, ma è per questo che ti dico, secondo me sono al punto di maturazione perfetto per vincere, perché le grandi squadre passano attraverso delle... crescono anche attraverso delle sconfitte, no? La semifinale del 2006, sì. Semifinale del 2008, semifinale nel 2010 al Mondiale, semifinale al 2012 all'Europeo, cioè sono un po' troppe, secondo me, le circostanze in cui hanno dato la sensazione di essere sul punto di decollare e poi non ce l'hanno fatta. Dopo aver attraversato una crisi di... non ce l'hanno mai avuta, perché comunque sono iniziati anche nel 2002, c'è una continuità, però c'è stato un ricambio generazionale negli ultimi 5-6 anni con questo cambio di pelle, nel senso che la Germania, sai, il mondo ormai globalizzato, per cui c'è mescolanza di popoli, di provenienze, di origini, e quindi tu hai una nazionale tedesca con dei giocatori che hanno completamente cambiato la struttura, no? i vari Özil, i vari Khedira, sono giocatori arrivati chiaramente da fuori che hanno un po' cambiato le caratteristiche. Hanno un talento incredibile. A metà campo e hanno la tre quarti più forte del mondo. Hanno Schweinsteiger, hanno Lahm, hanno Kroos, insomma, squadra sì, anche se questa, Pier, non c'entra, questa squadra non c'entra molto con quella del 2006. È una squadra che è nata dopo sulla base di giocatori che adesso hanno 25-26 anni. Özil, Khedira e lo stesso Müller, che è un giocatore secondo me clamoroso, non capisco perché viene messo in discussione certe volte. Oggi perché ne parlo, perché siccome... Beh, ma sai, lo diciamo da un sacco di tempo. Spiro l'omosessualità per e qui insomma diciamo che parlare dopo una tripletta può sembrare facile, ma insomma il giocatore appeso l'avevo anche inserito come marcatore a Twittau, dove sono adesso secondo in classifica, mentre il signor Cruciani langue in una bassissima classifica che veramente mi dicono zona retrocessione, terz'ultimo posto. Adesso dammi qualche istante, recupero la classifica. Bravo, c'è che recuperarla, mi interessa. Ascoltami, ma prima Paolo da Milano, mentre tu recuperi la classifica di Twittau, cui io tengo enormemente, c'è la Piantanida? Vabbè, allora ditelo, ragazzi, siete così organizzati, ditelo. Paolo, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Io volevo appunto intervenire sulla dichiarazione che avete fatto sentire all'inizio di Zeman, dove mi trovo d'accordo, perché effettivamente la difesa abbiamo sofferto molto. Non so se era anche perché il centrocampo era poco, diciamo, coperto, perché io sono del parere che o Verratti o Pirlo devono giocare. Tutti e due insieme, secondo me, non danno la sufficiente copertura. Difatti poi con Thiago Motta e anche Parolo mi sembra che le cose siano andate meglio. Però ciò non toglie che abbiamo sofferto in difesa e anche molto. Quindi io mi trovo totalmente d'accordo con Zeman, non so cosa ne pensate voi, però io la vedo così. Sì, quello che stavo dicendo. Una squadra un po', non voglio dire zemaniana perché non lo era, però insomma diciamo che è una squadra che quella dell'altro giorno che ha concesso molto, è molto diversa secondo me ne parlavo anche ieri, dal tiki-taka tradizionale, perché il baricentro era basso e perché il concetto fondamentale era la grande densità in mezzo. Però è una squadra che ha preso tutta una serie di imbucate e che insomma si è sbilanciata, ha concesso molto, ha concesso il gol in contropiede, che chiaramente per noi italiani è un'eresia, insomma una specie di suicidio, di tradimento della nostra origine, insomma subire il gol in vantaggio, addirittura fa 1-0, abbiamo subito il gol del pareggio in contropiede, una cosa da matti. Però complessivamente ci sono... è una squadra che ultimamente concede molto, me l'aveva detto anche ieri in conferenza stampa, concede molto e costruisce abbastanza, e da questa situazione di partenza c'è stata la scelta dei cinque centrocampisti e secondo me che rispetto alle ultime uscite si è concesso un po' meno agli avversari e si è anche prodotto un po' meno davanti. Poi il bilancio è stato positivo, la squadra ha mostrato secondo me grande personalità e questo è l'aspetto più importante. È una grande condizione fisica. Sì, ma poi d'altra parte, Pier, adesso siamo qui a cercare il pelo nell'uovo e a cercare qualche via per preoccuparci un po' di più, perché la verità è che ne abbiamo bisogno. Il signor Cruciani insegna, ieri diceva il problema è che andiamo al mondiale, non ci sono polemiche, non succede niente, siamo tutti tranquilli e battiamo l'Inghilterra, ma com'è sta storia? In realtà insomma, guardi le altre. Facciamo rapidamente un pagellone delle grandi? Hai voglia? Sì. Dopo il primo giro, Brasile? Subito, però intanto scusa, ho recuperato la classifica, siamo 40. Ecco, io sì. Sono secondo a 49 punti. 3 dalla vetta. A tre dalla vetta. Cruciani è 38esimo a pari merito. Terz'ultimo a 3 dall'ultimo posto. Per avanti a Fabrizio Roncone, che salutiamo, il Corriere della Sera. Che fa apposta a sbagliare perché dice no, non posso far fa sta figura a Cruciani. No, comunque Cruciani ha 3 punti dall'ultimo posto. Questo no, è comunque, ufficiale. A 17, ma insomma non cambia, siamo 40 ed è 38esimo a pari merito. Esonero in vista. Però il campionato è lunghissimo. Anche qui, ancora con questa storia del campionato che è lungo. Però carta no, canta, vero, siamo lì. 12 partite, ne mancano 50. Ovvio. Ho capito, tanto già è tagliato fuori dalla lotta per lo scudetto, questo possiamo dirlo. Non è detto. Ma anche tu a fare democristiano, dai, ma Pierluigi. Il problema è che adesso comincerà a farsi prendere dal panico, comincerà a fare tutta una serie di pronostici ardenti, no? Tipo che ne so, farà Belgio Algeria 1-4 che cercherà di recuperare Brasile Messico 0-6 0-2 capito? Allora facciamo così, i voti al primo giro di tango. A proposito, non si chiama Tiki Taka, è quello dell'Italia. Abbiamo ribattezzato Tuca Tuca sull'onda dell'idea che ci ha dato il mondo. Sì, chiudo, va bene. Pierluigi, tu stai lì, Bad Corner, GR, poi di nuovo qui. Quote e pronostici. Oggi al Mondiale brasiliano si chiude la prima giornata con le gare valevoli per il girone H e scende in campo anche il Brasile padrone di casa, aprendo la seconda giornata del girone A. Si parte all'ora 18, ora italiana, con la sfida del Mineirão di Belo Horizonte tra il Belgio e l'Algeria. Queste le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria del Belgio, è quotata 1,30, l'X è a 5,25, il 2, con il successo dell'Algeria, è quotato 10. Alle 21 poi in campo il Brasile a Fortaleza contro il Messico per il primo posto del gruppo A. La vittoria dei Verde Oro, l'1, è quotata 1,28, l'X è a 5,50, il 2 invece è quotato 10. A mezzanotte la Russia di Capello se la vedrà invece contro la Corea del Sud all'Arena Pantanal di Cuiabá. L'1, la vittoria della Russia, è quotata 1,75, l'X è a 3,50, il 2 invece è quotato 4,50. Uno sguardo anche al basket, perché ad Assago si gioca a gara 2 di finale di Serie A tra Milano e Siena. L'1 è quotato 1,60, l'X è a 3,10, il 2 invece è quotato 6,75. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Hanno entusiasmo, hanno carica, arrivano poi da una grande vittoria. Speriamo che questo abbia esaurito una parte di loro energie e che arrivino un po' alla partita ancora festeggianti da quello che hanno fatto con l'Uruguay. Questa era Del Piero sulla prossima avversario dell'Italia, cioè Costa Rica, ma abbiamo anche un Del Piero sui portieri italiani. Cosa dice? La scuola italiana dei portieri è una scuola di altissimo livello, probabilmente la migliore anche al mondo, per cui prova nel fatto che Sirigu ha fatto una prova eccezionale l'altra sera. Allora, Pierluigi Pardo è sempre collegato con noi. Dario Ricci, ciao! Ciao, buon dia da Mangaratiba, Carlo! Dove sta? Geolocalizzati! Sto proprio qui al campo d'allenamento, oggi grande festa, davvero grande festa, perché ci sono centinaia, forse pure di più, bambini da parte delle scuole di Mangaratiba, delle scuole calcio di Mangaratiba, stanno tutti qua ad aspettare gli azzurri. Operazione Simpatia, è partita l'operazione Simpatia della Nazionale Azzurra, che finalmente apre, questo permette che questo sacro ritiro venga profanato belli, bravi, ah, anche simpatici, ma più di così simpatici, che volete, e vincenti, ma più di così che volete. Noi siamo qua appiccicati, i nostri piedi nella melassa, squattiamo nella melassa, ma ci sono tutti questi bambini che festeggiano, devo dire, ci fa pure piacere vedere degli esseri umani, cosa a cui non eravamo più abituati da qualche giorno. Li guardo anche, no, perché vi vedete solo tra di voi, e come noto i giornalisti esseri umani non sono mai stati. Questa è la lettura, è la lettura più corretta, mi pare di poter dire, vero Pardo? Sai che Pierluigi, sai che è partita su Twitter è partita questa onda colossale, aiutate Cruciani a risalire in classifica. Ma perché? Perché dobbiamo aiutare Cruciani a risalire in classifica? È giusto che sprofondi nei meandri della classifica. No, è giusto. Signor Cruciani. Ascolta, io voglio fare, mi fai fare ste pagelle delle squadre più quotate? Me lo fai fare, che ci tengo? Che voto dai al Brasile che torna in campo stasera? Per quanto riguarda ovviamente la prima uscita. Nella prima partita do un 6 più per il risultato, ecco, più per il risultato, ma in realtà al di là del fatto che quella è la famosa partita che non ho visto perché stavo in aereo, quindi ho visto solo le immagini dopo, però insomma poca roba mi è sembrato, poca roba, aiutone arbitrale, anche la prestazione, difesa abbastanza fragile, insomma. Sì. Non benissimo. Un centravanti come Fred, trentenne, gioca in Brasile, certo non una superstar mondiale, che non piace a nessuno, neanche alla sua mamma. Ci fa pensare che magari Diego Costa, che a me non è che mi faccia impazzire, però forse poteva essere utile per il Brasile, no? Sì, certo. Invece mi pare che Balotelli da quelle parti sia popolare, Ricci. Mi pare che sia popolare. Sì, qualche collegamento con i bambini, glielo chiediamo. Vi gusta Balotelli? Da Italia? Sì! Eccoli qua, ce l'abbiamo in diretta, coro entusiasmante, ma in realtà ti faranno Brasile. Non chiedetegli di fare un coro per l'Italia, perché mi sorprende in maniera clamorosa. Il gagliardetto non è bastato, quindi questa è una notizia clamorosa. I bambini brasiliani ti faranno Brasile e non Balotelli. Giornata di scoop qua a Mangaratiba. Sì. Senti, torno ai voti, le migliori Olanda e Germania, anche qui non si discute, no? 8-8.5, Pier? Sì, le migliori Olanda e Germania, perché hanno vinto, c'erano tre scontri diretti in questa prima giornata, uno era il nostro, poi c'erano Germania, Portogallo, Spagna, Olanda, io l'Olanda, per l'impresa che ha fatto, la metto davanti a tutti, poi c'è davanti a tutti la Germania, no, come impresa della prima giornata, come performance della prima giornata, l'Olanda è quella che ha fatto la cosa più straordinaria. Per me la Germania è più forte. Sì, ho capito. Io credo che un quarto di finale Italia-Olanda sarebbe, abbiamo buone possibilità, secondo me, perché l'Olanda ha fatto una partita incredibile, ma abbastanza casuale. Una partita che non so se riuscirà sempre a ripetere. Bisogna considerare che dall'altra parte c'è stata la grandissima sorpresa in negativo di questo inizio di mondiale. Spagna voto 3, non uno di più. Sì, Spagna voto 3 perché tu puoi anche essere poco brillante. Certo. Non dimentichiamoci che la Spagna vinceva 1-0, ha avuto una palla gol clamorosa per andare 2-0 al 35esimo del primo tempo, sembrava veramente che fosse la solita tiritera. Però il modo nel quale i leader storici della Spagna, e penso soprattutto alla difesa, hanno mollato nel secondo tempo con un calo fisico e psicologico, quella è la cosa secondo me preoccupante per la Spagna. Poi domani c'è Spagna-Cile, che è una partita decisiva. Perché, lascia raddoppia, insomma, prendere o lasciare, la Spagna potrebbe uscire, un pareggio equivarrebbe con ogni probabilità a un'uscita, anche perché insomma a voler pensare un po' male, poi c'è Olanda-Cile, beh, è chiaro, se sono furbe fanno fuori la Spagna. Esatto, e poi c'è anche il discorso della differenza reti, che non è un dettaglio, la Spagna ha perso 4-1, quindi addirittura forse potrebbe addirittura vincere l'Olanda e passare comunque il Cile. Detto questo, se la Spagna dovesse domani risorgere in qualche modo, occhio, io non mi fido, perché questi hanno vinto tutto negli ultimi anni, sono una squadra secondo me ancora con dei valori tecnici importantissimi, molto molto forte, molto abituata a gestire la tensione, sicuramente alcuni leader c'è stanchezza, questo è indiscutibile, quindi sì. Iniesta, Xavi, tanto per fare due nomi, non sono quelli di qualche tempo fa. Però, come dicono gli americani, never underestimate the pride of champions, sì. Anche se farà un paio di cambi o tre del boss, che vediamo se bastano. Dario, invece, alle due che hai visto sabato, quando noi, da noi era sabato notte, Italia-Inghilterra, voto? Ma Italia-Inghilterra, direi un 7,5. Sì. 7,5 perché a me è piaciuto molto, soprattutto questo crescendo fisico. E all'Inghilterra darei un 7-. 7-? Chi se la trova, ma è un voto buono secondo me, nel senso che poi la partita è stata persa dagli inglesi e quindi quello conta. Il fiato è venuto meno e in questo mondiale conterà tantissimo, però è una squadra rognosissima e chi se la troverà negli ottavi e in quella parte del tabellone farà molta fatica, proprio per i motivi che abbiamo detto, perché un Inghilterra così, che ha rinunciato ai pennelloni davanti, che c'ha quei quattro davanti appunto che riescono a giocare bene la palla, eccetera eccetera, è veramente veramente veramente molto pericolosa. Certo, anche visto per l'Inghilterra, però vale lo stesso discorso fatto per Spagna Cile, insomma Inghilterra e Uruguay si giocano un confronto diretto, certo. Chi vince è vivo, chi perde è morto sportivamente, come è chiaro. Francia 6,5, Argentina 6, secondo me sono i voti corretti, Pardo? Sì. Occhio alla Francia perché ha un girone straordinario, disegnato sembra quasi apposta, pensavo che stesse male, ma insomma veramente hanno un'autostrada e potrebbero arrivare abbastanza comodamente ai quarti di finale, quando poi l'incrocio più probabile è quello con la Germania e lì diventa veramente una grande sfida. Però insomma occhio, perché la Francia mi sembra una squadra abbastanza equilibrata, con un talento medio-alto, non chiaramente sui livelli il talento che può avere l'Argentina, che può avere i poteri della Germania, che può avere il Brasile, però insomma secondo me la Francia è un po' come noi, Noi forse abbiamo qualcosa in più, ma insomma siamo in quella categoria lì, possibili outsider. Probabilmente noi abbiamo un po' di esperienza in più rispetto alla Francia, sì. Loro hanno molto talento giovane, è chiaro che ti viene in mente subito Pogba, Varane, ma ce ne sono degli altri, sono una squadra mediamente molto giovane. Nicola da Milano, oggi, buongiorno. Oggi gioca il Belgio, finalmente tutti quelli che in questi giorni... Dal barbiere, ai bar, come dicevi. Sì. Quando, poi magari il Belgio ne prende un paio, di fischi. Io dicendo nei salotti TV, occhio al Belgio, veramente. Sei nessuno. Facciamo molto figo, no? Il Belgio. Chi gioca nel Belgio? Aspetta che chiedo, ma il Belgio, però guarda che è figo, il Belgio va forte. Enzo Schifo, esatto. Nicola? Ma è molto giovane. Sì, ciao. Ciao, dimmi. Ciao, grazie per la convocazione, complimenti per la trasmissione. Volevo farvi alcune considerazioni, se possibile. Avete in pratica, i radioascoltatori hanno abbastanza detto tutto quello che più o meno pensavo, nel senso che secondo me Chiellini non ha da essere lì a sinistra, un centrale come Paletta secondo me non lo vorrei più vedere, ecco, nel senso che secondo me Chiellini Barzagli come coppia difensiva batte a destra, visto che De Sciglio non c'è, Darmian a sinistra. In mezzo al campo sempre a mio modesto parere i due, Verratti, Pirlo, per campo a livello di peso è un po' giovane, un po' inesperto Verratti, quando è entrato Thiago Motta si è vista un cambio di marcia, e mi dispiace per Balotelli perché viene molto spesso bersagliato, io sono tifoso interista, viene molto spesso bersagliato ma è sempre molto isolato e le palle gli arrivano tante volte anche un po' così, nel senso che se è servito un pochino meglio con un Cassano magari in appoggio, secondo me potremmo avere molte più possibilità. Quella però è la dura legge del centravanti dell'unica punta, quella è la dura legge della ricerca del gol per chi gioca unica punta. Piuttosto ragazzi, Dario e Pier, mi dite qualche novità dall'allenamento di oggi che sta per cominciare, cioè cosa si dice in giro? Dario? Guarda, la notiziuccia tutta da valutare di ieri è che Buffon è tornato ad allenarsi, hanno detto in campo, quindi devo dire, secondo me c'è stato un eccessivo entusiasmo rispetto a questa notizia, sia perché ieri è stato fatto nel pomeriggio lavoro in palestra, quindi è normale che comunque anche un giocatore infortunato mantenga un minimo di attività per mantenere tono muscolare, eccetera, eccetera. Però, insomma, è tornato e quindi sembra di nuovo in corsa per quel posto in porta con la Costa Rica. E poi c'è stato qualche problemino invece per De Rossi, problemi di cervicale, ieri terapia a parte, terapie conservative pure per Barzagli. Adesso dovremo fare un'inchiesta sui materassi qui al Portobello Resort, perché sta cervicale come è uscita fuori? dobbiamo capire, tra l'altro lo chiederemo proprio a Daniele, che dopo sarà in conferenza stampa. Però ecco, sembra che comunque sia un problema gestibile, gestibilissimo, sì. Insomma. Tu stai bene, Pier? Pardo sta bene? Hai qualcosa? Io sto bene, io cervicale, mi sono svegliato alle 7 senza voce, perché ieri sera, a proposito di esseri umani, tornando da cena, qui a Casa Azzurri c'erano, non i giocatori, ma insomma un po' di staff della nazionale che insomma, si cantava, si suonava, Battisti, Vasco, e quindi insomma l'umidità, mi sono svegliato stamattina pensando di dover mandare un altro oggi a fare tutto, la radio, la TV, eccetera, invece insomma tutto sommato... Potevi mandare Capello, no? Ma oggi ho il mix contro la Corea. È vero, già più tardi, no? dopo tutti i convocati. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Allora, anch'io mi iscrivo al partito degli ottimisti. Grande. Andiamo alle elezioni, comunque. Partito azzurro. Però, d'altra parte, volevo dire agli appartenenti a questo partito di fare un po' attenzione a tutti coloro i quali salgono nell'ultime ore sul carro degli ottimisti. Sì, ma noi li prendiamo tutti. Poi, se pagano la tessera, va bene. Non c'è problema. Allora, facciamogliela pagare tanto. Guardi, vi racconto questa piccola cosa. Io non ho visto il primo tempo della partita sabato. E, ho deciso di sintonizzarmi prima su Sky e poi sulla Rai. Sembrava di aver assistito, almeno dalle parole dei commentatori, a due partite completamente diverse. Quelli di Sky, morigeratamente soddisfatti. Quelli della Rai, un portaiella allucinante. sembrava nemmeno stessimo perdendo contro un'altra cosa. Insomma, io dico un po' di obiettività ai commentatori, ovviamente non voi perché siete i migliori in circolazione, però non si può, io non posso immaginare cosa sarebbe successo se quella palla di Rooney fosse finita dentro e fosse poi, secondo me, finita 2-2, come credo fosse anche il risultato così, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di qualche appiglio di sfiga, sennò non siamo contenti. No, io sono molto interessato a come e dove avete visto la partita sabato sera, magari è una domanda un po' maliziosa, magari mandate al diavolo se volete, ma dove l'ha vista lei? Ma io guardi, l'ho vista in appartamento, perché prima ero andato a farmi due reti di tennis, sono un appassionato e poi mi sono messo a guardarla sul divano tranquillamente, in silenzio assoluto, ecco. Quindi una cosa tranquilla, niente feste, bagordi. No, assolutamente. Come un grande classico, è partito dalla nazionale. Alla Mughini, con le tapparelle chiuse, da solo con le tapparelle chiuse. Alla Mughini. Allora, mi parli, mi può dire qualcosa, dottor Pardo, invece sulle superstar vere e presunte di questo mondiale? Vabbè, Müller su tutti, per forza, i tre gol. C'è qualcuno che ti è piaciuto in modo particolare nelle partite che hai visto? A me Cuadrado, tanto per dirne uno. Robben, Cuadrado mi è piaciuto la Marti. Non mi è piaciuto tanto Messi, però poi il calcio è chiaramente anche quello che può cambiare in un attimo, in battito, e quindi Messi con quella giocata lì si è guadagnato un voto importante, e poi era un gol storico al Maracanã per l'Argentina, insomma, quindi è chiaro che se fa un gol a partita così l'Argentina ci mette la firma, no? Ecco. È chiaro. Però sicuramente non mi era piaciuta come prestazione complessiva, come connessione, direbbe Sacchi, al resto del gioco della squadra. E i nostri mi sono piaciuti tanto, ci sono stati 4-5 giocatori che a Brema mi è piaciuto tantissimo, Pirlo, a parlarne, Sirigu mi è piaciuto, Balotelli ovviamente, insomma noi siamo... Noi, ecco, secondo me siamo venuti fuori come squadra, Cioè, al di là poi dei meriti, perché da Balotelli segna ed è un merito che gli va riconosciuto, ma la vera magia di Balotelli è quella alla fine del primo tempo, sì, quando, sì, quando poi salva Jagielka sulla linea, perché poi il colpo di destra era quasi banale, insomma. Sì, grande cross di Candreva, ma la cosa strana è che ci sorprendiamo del fatto che Balotelli sia bravo a giocare a pallone. Lui è uno che ha quei colpi, è uno che ha quei colpi, poi sta sulle palle a tutti quanti. Però a proposito di sorprese, no? Ieri è venuto in conferenza stampa, insomma, io gli ho anche chiesto questa cosa, perché la sorpresa nei confronti di Sirico, se vuoi, è un po' un segno di provincialismo, nel senso, questo è il portiere del Paris Saint Germain, è un portiere titolare di una squadra che in Francia sta dominando da anni, che ha un budget, come diciamo a Roma, che ha i soldi che fa la guerra, e che ha rischiato veramente di arrivare per il secondo anno consecutivo, è stato eliminato nei quarti di finale, ma facendo sempre una bella figura in Champions League, per cui insomma non è uno che non sta vivendo delle grandi notti, delle circostanze in cui l'adrenalina è tanta e viene richiesto un certo tipo di forma mentale. E quindi forse sai, Sirico siamo un po' provinciali noi, perché ma questo è evidente, ragazzi, ma appunto per le ragioni che dici tu, è un portiere che comunque gioca ad alto livello, non da ieri, non è che è andato l'altro ieri al Paris Saint Germain, ha giocato un paio di partite, sono due stagioni, ha vinto un campionato, ha fatto quello che ha fatto in Europa, dunque insomma è un portiere di punta a livello europeo, se no il Paris Saint Germain, che c'ha i soldi per fare una guerra, mica lo prendeva, eh? Onestamente mezzo chilometro avanti a Perin, a Mirante, a Scuppè, cioè in questo momento sì, al di là della sua prudenza nel non voler dire e non voler neanche pensare adesso a che cosa succederà nei prossimi 10 anni, però insomma lui abbia la possibilità di prendersi questo ruolo di Buffon, che ovviamente non è eterno, quindi tra qualche anno dovrà mollare, anche se sappiamo che poi il portiere potenzialmente uno dei ruoli più longevi, e noi purtroppo l'abbiamo vissuto questo tipo di situazione, però insomma il nuovo Buffon mi sembra che gli appartenga, sì, al di là sì, del fatto che poi nei portieri sappiamo che ci sono delle variazioni di rendimento enormi, per il semplice fatto che il portiere è da solo, per cui se sbaglia è gol, certo, per cui tu puoi avere oscillazioni questa... di rendimento fra centrocampisti, per dirti Pirlo, vi ricordate all'inizio dell'anno aveva fatto qualche partita non brillantissima, era anche stato sostituito un paio di volte con relative piccole polemiche, ce lo ricordiamo bene, oggi giustamente siamo qui a celebrare la letterarietà, il genio del calcio, questo è normale. La stessa cosa, se succede a un portiere è più difficile insomma rialzarsi. E ma vedi, questa è la ragione per cui, ne parlavo prima con Giovanni Galli, per il portiere è l'unico ruolo per il quale non è ammesso il turnover, cioè per il quale il turnover è una sciocchezza. Il portiere ha bisogno di determinate certezze. Si parla anche al Real Madrid, finito per pagare qualcosina sull'altare di questa alternanza dei portieri. Pierluigi, ti ringrazio, ti lascio andare all'allenamento. Bene, bene, vamos a ganar. Ciao. Vamos a ganar. Ciao, ciao Pierluigi Pardo. Dario? Eccomi Carlo, c'è stato l'abbraccio tra Pirlo e Balotelli. Pirlo e Balotelli, no, l'abbraccio tra Pirlo e Balotelli e tutti i bambini a centrocampo. Balotelli spiccava su tutti, Pirlo quasi neanche lo vedeva, era stato letteralmente sommerso, poi per fortuna è uscito sano e salvo. Dire, una bella entusiasmo comunque. Questo insomma è sicuro. Senti, volevo chiederti ancora un'ultima cosa rapida, ma no, tu hai l'impressione che le voci di mercato che fatalmente ci sono stiano in qualche modo disturbando qualcuno? Direi al momento di no. Direi al momento di no, anche perché finora i ragazzi sono tutti ben preparati anche dal punto di vista della comunicazione, quindi le rispostine sono sempre quelle a modo, come si dice, no? Al momento il gruppo è la cosa più importante. Qua diciamo che ognuno, diciamo più a Mangaratiba, si recita a soggetto, quindi abbiamo avuto il presidente pompiere, sapete, l'abbiamo sentito che ha spinto il fuoco dell'entusiasmo perché ora bisogna stare con le piedi per terra. Il portiere che se ci pensiamo ha detto una cosa clamorosa, ha detto sono contento che torni Buffon. Quando mai si è visto un portiere che c'è un ruolo che no, ma è evidente. Poi non è che c'è la macchina della verità in sala stampa, però sono tutte risposte a modino che danno l'idea di un gruppo unito, idilliaco, sicuramente compattato da quella che è stata la vittoria sull'Inghilterra, che corrobora non solo la classifica ma anche la posizione e le scelte di Prandelli, che adesso avrà anche credito, certo, che le vittorie vogliono dire tra le molte altre cose anche credito da spendere e fiducia, sono due fattori importantissimi. siamo tutti contenti, siamo tutti felici e finché il risultato viene. Quella col Costa Rica sarà già un incrocio decisivo, e dico questa banalità, ma perché, come sai bene, secondo me di calcio se ne potrà vedere ben poco, perché se fa caldo, io ho visto i vari siti web, adesso dobbiamo intervistare qualche meteorologo da qua a Recife, perché la cosa più importante sarà, preghiamo, facciamo la danza se non della pioggia, perché purtroppo ha fatto tanti danni in altre zone, Natal, ma quantomeno che ci sia un po' di nubi, sì, perché se giochiamo alle 13 con questi non si può far calcio, il giorno dopo. No, questo è evidente. Non si può far calcio, quindi che partita andiamo a commentare, che partita andiamo a giocare? Sarà una partita estremamente complicata quella in Costa Rica, e sarà estremamente complicata come estremamente importante, banale ma vero. Grazie Dario, a domani. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tutti convocati. Quando sentite questa musica sapete chi c'è. Ciao Sara Tardelli. Oddio, ciao Carlo, come stai? Benissimo. Bravo. Senti, ho vari ascoltatori che mi chiedono, ma Cassano secondo te quando sbrocca? Ho letto. Dai cazzo, parliamo un po' di basket domani. Ho letto anche questa domani finezza, di basket, sì. eccetera. Oggi parliamo di mondiali, non ci sono storie, basta, di mondiali? Decidiamo ma noi. Veramente? Non ne parliamo mai. Mai. Cioè, com'è? Senti, che Franco Piantanita, lo sai? Eccomi, ciao Sara. Ciao Franco. Ciao, una bella pagina. Sai che io ho alcune perversioni, Sara. Immaginavo. Ne ho parecchie, però una è quella di sapere dove gli ascoltatori hanno visto la partita, dove vedranno le partite dell'Italia, perché sono curioso. Un'altra mia perversione, Franco lo sa benissimo, è quella dell'abbigliamento dei giocatori. Mi piacciono le magliette, mi piace vedere quelle scarpe strane, tra un po' le scarpe palmate, mi piace vedere come sono vestiti i commissari tecnici. Lo scorso mondiale il mio idolo assoluto era Maradona, per come era, lo è sempre. Sobrio. Per come era sobrio, brava, Armani, diciamo, brava. E a te? No, invece ti devo dire questo, che sicuramente noi per adesso non vinciamo, diciamo, il trofeo dei più simpatici come nazionale. Non so se avevi letto giorni fa che il sindaco di Mangaratiba si era lamentato, no, dell'atteggiamento dell'Italia, bunkerizzata, chiusa, la popolazione non poteva avere rapporti con la nazionale, eccetera. Però secondo me vinciamo il primo premio per lo stile. Innanzitutto perché Dolce Gabbana firma le divise dei nostri giocatori, e voglio dire, non ci si sbaglia. Vabbè, perché d'altra parte sarebbe una notizione al contrario, cioè una nazionale italiana vestita non si sa mai, con la crisi non si sa mai, quindi sì, ci siamo garantiti almeno questo. Però poi Prandelli ha messo nell'armadio il suo solito tutone e c'è sceso in panchina, sì, bello, elegante, il povero Oxon ci ha provato, ma aveva quel vestito che insomma un po' triste, non so se l'hai visto, un grigio che si confondeva col da capello. Da Oxon, cioè non mi sarei aspettato niente di differente. Ma ha fatto un passaggio in Italia, speravo avesse imparato qualcosa. Ma lui è così. Non devo dirlo? Sì, come no? Sei qua apposta, Invece, ad esempio, i croati hanno proprio optato per il nude look. Vabbè, quello è una cosa loro, insomma. Io sono rimasta colpita dalle maglie, proprio le maglie che indossano i giocatori della nazionale, perché ho letto che questo tessuto che è stato scelto per quest'anno fa un micromassaggio. Ah, sì. Che dovrebbe aiutare a migliorare le prestazioni muscolari. Ah, per quello che è Cassano in panchina così rilassato, che gli frega, fa il massaggio con la maglietta. Ma Carlo, Franco, tutti voi, ma secondo voi queste cose contano o è solo marketing? Secondo me è solo marketing. Se possa essere un plebiscito popolare, non credo che ci sia una risposta. No, anche tutti perché sulle io, mani, 56 milioni di mani. Ho la maglia di Zoff quando ha giocato al Bernabeu, quindi immagino non facesse proprio fresco, no, a luglio dell'82, di lana. Certo, esatto. Si usavano quelle lì. Aspetta un attimo, esatto. Giampiero, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Ma secondo te la maglietta dell'Italia fa davvero il massaggio che facilita la circolazione o no? Come le calze elastiche? Ma questo non lo so, però un po' di tempo fa nel nuoto c'erano i costumi. Quelli erano un'altra, quelli erano un'arma letale, una cosa quasi diversa. Quasi doping. Sì. Borderline con il doping, sì. Esatto, esatto. Beh, sicuramente ultimamente anche in questo settore si è evoluti abbastanza, quindi sì. Poi è tutto da vedere, perché sicuramente subentra anche ma è un fenomeno di marketing. Cercano di fare delle magliette molto strane, di tessuti molto particolari, sì, in modo da ingolosire i potenziali acquirenti. Voleva dire qualcos'altro, Giampiero? Sì, una considerazione. Sì. È facile parlare post partite, voglio dire, no? Però secondo me contro l'Inghilterra noi abbiamo affrontato l'attacco più forte, non dico di tutte e 32 le squadre, però l'attacco di livello, ha ragione. Però uno dei più forti, questo qua non lo abbiamo considerato. Uh-huh. Abbiamo naturalmente guardato quali sono stati i nostri limiti, ed è giusto farlo, senza neanche tenere considerazione più di tanto che le ultime 10 o 12 partite della nazionale italiana di valore. No, è chiaro, arrivavamo da un approccio al mondiale quantomeno deludente, e giocavamo contro una squadra che è di livello. Poi bisogna vedere come sono in questo momento, qual è in questo momento la condizione fisica degli inglesi, però questo certamente, ma questo era già tutto nel conto, per questo motivo che siamo tutti piuttosto fiduciosi, o no Franco? Sì. Sì, sì, assolutamente, anche se per quanto riguarda l'attacco dell'Inghilterra c'è il grosso interrogativo Rooney, perché è spostato sulla sinistra come nel primo tempo, insomma non ha funzionato, non piace, molti lo vedono dietro a Sturridge, sicuramente insomma lì potrebbe essere la sua posizione, anche se Rooney al mondiale non ha ancora segnato, questa è la sua terza partecipazione. È vero. 6, ma, 10, scusate, ma poi avevano anche i crampi. Sì, ma dopo un'ora avevano i crampi, non negli ultimi 5 minuti. No, certamente, infatti questo vuol dire che abbiamo giocato quantomeno in maniera intelligente. Senti Sara, al di là delle magliette che fanno il massaggio, altra cosa che comunque me... Paolo dice che ne ha comprata una e ha letto con sua moglie, le prestazioni sono molto migliorate, quindi rispondo a chi dice ma sto ascoltando una serie di stupidaggini. No, abbiamo anche la testimonianza del fatto che queste magliette funzionano, quindi sì. Caro, scusa, difendevo l'attendibilità delle informazioni. Che funzionino o no, cioè, non lo stiamo dicendo noi. Te ne regalo una, va, dai, su, no, ti voglio bene, te ne regalo. Dai, brava. No, parlami invece delle scarpe, quali ti piacciono di più? Perché allora, questo è il mondiale, la manifestazione in cui ho visto le scarpe più strane, più assurde della storia del world. Calcio. Sì. Sì. Allora, vabbè, ogni intanto epoca. Ho letto che Balotelli, quando ha ricevuto le sue, sai che sono una di un colore rosa e una azzurra, mi fanno impazzire. Ha detto: oh, ma si sono sbagliati? Diciamo una riflessione intelligente, sì, ma, poverino, per una ma volta. Ma guarda che non sarà, certamente non è stato solo a pensarlo, anzi. Penso fosse nel partito di maggioranza. No, invece io ho detto, vedi, la par condicio dei sessi, una rosa e una azzurra. A me è piaciuta, essendo quota rosa, le ho molto apprezzate. Sì, sì. Poi ci sono quelle alte di Ronaldo. Tipo basket. Esatto, sono quelle alte ci tipo sono basket. Quelle, per esempio, di Cristiano Ronaldo, ma le ho viste a un sacco di giocatori oramai, che arrivano alla caviglia, no? Io, insomma, non è che proprio le trovi meravigliose, non mi sembra che donino particolarmente allo stacco di coscia dei giocatori. Tozzano un po' la gamba, dici? Tozzano un tantino, ma quello che mi ha impressionato è che sai quanto ci hanno messo quelli della Nike per fare le scarpe, non so se posso dire la marca che indossa, certo, le Mercurial Superfly di Ronaldo, 4 anni. Ah, per progettarle? Per partorire il modello ci hanno messo 4 anni. Perché? Perché il materiale usato diminuisce al massimo la distanza tra il piedino d'oro di Ronaldo e il pallone, cioè per aumentare, no, la sensibilità nel fare i gol che lui sa fare, ma che purtroppo per adesso non abbiamo visto. Il problema è che se invece il piede di Ronaldo ci metti un altro piede, non è che giochi come se Ronaldo. Se ci metti il mio, certamente non otteniamo lo stesso risultato. A te piacciono, Franco, quelle scarpe lì? Il problema è che se la sensibilità sensibilità di Ronaldo non hanno gli altri 10 scarponi del Portogallo, insomma. Sì, no, sì. Ma a te piacciono queste scarpe? D'accordo. Ma guarda, non le ho provate, le ho viste, le ho toccate con mano, insomma, non è rigida come la scarpa, la parte che sale sulla caviglia è una specie di calzino, un calzino rigido, diciamo, come se fosse una specie di polsino. Ma secondo me non sentono neanche la differenza. C'è da dire che molti calciatori si fasciano la parte bassa delle caviglie con lo scotch, in realtà per tenere poi i parastinchi, per non farli scivolare sotto. Non saprei, credo che sia un impatto praticamente nullo. Sì, no, sempre le scarpe di Ronaldo per proteggergli la caviglia, infatti, oltre a essere alte, hanno proprio un sistema di tiranti, cioè dei microcavi che passano in mezzo, cioè praticamente un robot. Sì, un po' di stabilità sicuramente al piede la danno, cioè credo che si cerchi quella, credo che cerchino quella. Poi, però, poi ci sono anche i vari modelli dell'Adidas che sono tutti arlecchinati. Quelli non... un'esplosione di colori. Io sto parlando solo da un punto di vista cromatico, da un punto di vista puramente estetico, perché poi le varie funzioni che hanno queste scarpe non le so. Però da un punto di vista estetico, mentre quelle alte non mi dispiacciono, queste un po' tutte... leopardate mi ingrifano di meno. Sara, io ho il traffico. Tu il che traffico, fai? Devi andare via? Il traffico, come vuoi, vediamo. Sorpresa. Che vediamo, va bene. Ok, traffico. Tutti convocati. C'è ancora? Sara Tardelli? Sì. Ah, sei ancora lì. Fantastico. Sono ancora qui, non riesco a lasciarti oggi. Ma fantastico, ma stai lì, dai. Adesso c'è anche Franco che ci fa ridere un po', perché ci sono alcune cosine da sapere. Da sentire, molto carine. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Io volevo così proporre una riflessione, proporle. Sì. Le nazionali inglese e spagnola, a causa di campionati tiratissimi che si sono praticamente risolti all'ultima giornata, addirittura gli spagnoli hanno una selezione delle tre squadre che hanno fatto 60 partite. Vero. In stagione, non è probabile che risentano, ad esempio Piqué praticamente cammina in campo. Sì, però è tutta la stagione che cammina Piqué. Direi, infatti, certo, deve essere Shakira, deve essere. No, è sempre colpa nostra. Non so se è Shakira, ma credo di sì. E allora beato lui comunque, insomma. No, al di là degli scherzi, Giuseppe, questo è vero, però valeva lo stesso discorso anche nelle edizioni precedenti di Mondiali ed Europei, quando gli spagnoli, Shakira permettendo, si sono portati a casa tutto. È vero, però c'è una verità di fondo essenziale che è questa. Eriksson l'ha sempre ripetuto molte volte, ha guidato la nazionale inglese, arrivava al mondiale con una squadra puntualmente priva di ogni energia e ha sempre detto quello che lei sta dicendo, cioè in Inghilterra si gioca un enorme numero di partite e si giocano tutte le partite allo stesso modo, FA Cup, campionato, eccetera, tutte con la stessa intensità, con grande pubblico. E questi davvero arrivano a fine stagione e non ne hanno più, quindi questo è certamente vero per l'Inghilterra. Per la Spagna vediamo, nel senso che il campionato spagnolo non è così devastante come dal punto di vista dell'equilibrio come quello inglese. Però le spagnole sono arrivate in fondo sia in Champions che in Europa League, e le inglesi, a parte il Chelsea, semifinale di Champions, nada. Senti, fai sentire a Sara Tardelli un paio di vocette. No, perché la cosa straordinaria dei mondiali, Carlo, che ormai noi lo sappiamo, già il secondo mondiale che facciamo assieme, è che parlano tutti, e tutti possono parlare, e tutti hanno voci in capitolo, secondo me. E quindi io pregherei il nostro Puyol La Corte in regia, data la somiglianza, di farci sentire Don Carlo, poi vi diciamo chi è. È da tanto che non lo vede. Ma lui alle feste della società spesso viene invitato e viene. L'ultima volta che l'ho visto è stata a Natale, perché poi con i suoi impegni calcistici è sempre via dal paese. Quindi anche per Don Carlo, forza? Forza Matteo e forza Italia, ecco. La benedizione di Don Carlo, parroco di Rescaldina, per Darmian. Cioè, questo è il bello dei mondiali. Carino. Cioè, l'altro giorno ero in una pasticceria e senti la signora che, oltre a darti un pasticcino, dice: per me stasera segna De Rossi. Cioè, tu rimani così? cioè, il mondiale è questo, no? Ma soprattutto, la vera chicca, secondo me, di questa settimana è la mitica nonna di Candreva, che ha dato un amuleto al nipote per il mondiale. Tutto Antonio, Antonio, aspetta che ti vedo questo sacchettino di sale. Un portafortuna, nonna. Sì, e io l'ho parato a Tripoli. È un sacchettino fatto di stoffa rossa. Rossa? Rossa. Fatto a mano. Con dentro? E poi dentro ci metto un po' di sale. Sale? Un cornettino rosso. Sì. Un cornettino e uno spicchietto di aglio. Vabbè, io non lo so, io vado fuori di testa. Io mi arrendo. Ma tuo papà, amuletti? Mio padre? Sì. Aveva una Madonnina sotto il parastinco. La stessa, sempre la stessa? Sì, per tutti i mondiali, sempre la stessa. Sì, ah, lui è molto credente e quindi aveva la Madonnina. Ma normalmente solo per i mondiali? Sì, sì, per i mondiali. Ah. Esatto. E poi ti volevo dire una cosa, Carlo, certo, siccome certo tu sei molto attento al pubblico femminile. Chi te l'ha detto? L'ho capito. Durante la partita di Inghilterra-Italia ho fatto un po'. Ho guardato un po' di tweet. E uno mi è piaciuto troppo e te lo voglio leggere. Sì. È di Alessia, una sì. donna. Sì. E secondo me fa capire un po' come le donne interpretano il calcio, cioè con un po' di ironia. E dice: voglio fare l'arbitro per usare la bomboletta spray. E poi contro i giocatori fallosi usano la bomboletta al peperoncino. Cioè, io dico. Durante la partita della nazionale, certo, come ti viene in mente? Contro i giocatori fallosi, la bomboletta peperoncina è la cosa più indicata. E finirebbero un sacco di discussioni inutili. Sì, certo, certo, certo. No. Ma un po' arrivano anche qua le bombolette. No, scusa, siccome io abbiamo degli ascoltatori straordinari, no? Ma veramente straordinari, come diceva Rigo. Cioè, Riccardo Zavagno su Twitter ci ha mandato la foto di Daniele Massaro a USA 94 con delle Valsport. E vabbè, oggi facciamo contenti sì. tutti. Sì, tutti. Facciamo contenti, esatto. Alte, con la cavigliera. Guarda, caro, te la faccio vedere così in diretta. Tu che non sei sì, tecnologico. Me le ricordo. Sono delle cose imbarazzanti, Sono imbarazzanti. Sì. Sembrano dei polacchini di, non so. Sì, sì, sono le classiche. Però vedi, i precursori, questa ditta italiana. Le scarpe ortopediche. Adesso te la mandiamo. Le scarpe ortopediche che si usavano una volta. Vabbè, c'è altro da dire, ma la maglietta che ti piace di più ai mondiali qual è? Non dirmi quella azzurra perché tanto, vabbè, lo sappiamo. Un po' sì, vabbè, però mi è piaciuta quella del Ghana. Del Ghana? Sì, sì, perché è tutta bianca, sì, fammi dire vista. Perché è tutta bianca e ha solo nei bordi, diciamo, i colori e la storia del suo paese, no? Che poi sono tutte quelle stoffe colorate che si mettono le donne ghanesi ed è riuscito un po' a contenere, diciamo, il gusto ghanese lasciandogli un piccolo spazio, cosa che non hanno fatto domenica sera, come ti dicevo, secondo me, i giornalisti e i commentatori dei programmi televisivi. Sì, facciamo così, ne parliamo la prossima volta. Va bene. Così vediamo un altro giro, concediamo il diritto di facciamo di replica a quelli che sembravano tutti vestiti, molti sembravano vestiti come pappagalli, ma non è che okay, sono i mondiali in Brasile, ci si vesti come... No. I Perots, no? Come Campos, no. Usata con il portiere del grazie, grazie Sara, grazie ciao. Franco Piantanida. Io prima di salutarvi vi do il migliore in campo di oggi, maglietta di tutti i convocati a Lorenzo. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, grazie della Dica. Convocazione. Allora, anch'io mi iscrivo al partito degli ottimisti. Grande. Andiamo alle elezioni, comunque. Ma azzurro. Però, d'altra parte, volevo dire agli appartenenti a questo partito di fare un po' attenzione a tutti coloro i quali salgono nell'ultime ore sul carro degli ottimisti. Sì, ma noi li prendiamo tutti. Poi, se pagano la tessera, va bene, non c'è problema. Allora, facciamogliela pagare tanto. Guardi, vi racconto questa piccola cosa. Io non ho visto il primo tempo della partita sabato. E ho deciso di sintonizzarmi prima su Sky e poi sulla Rai. Sembrava di aver assistito, almeno dalle parole dei commentatori, a due partite completamente diverse. Quelli di Sky morigeratamente soddisfatti, quelli della Rai un portaiella allucinante. Sembrava nemmeno avessimo perdendo contro un'altra Corea. Devo chiudere subito e lo faccio. Appuntamento con tutti i convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao.